that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. They must have paid her a nice price, she's putting on a string of love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Ciao a tutte, ciao a tutti. Vorremmo aprire questa puntata della nostra trasmissione con una piccola frase presa da Colette Guyomène. Colette Guyomène è una sociologa, antropologa e comunque ha fatto parte del collettivo di Question Féministe insieme a Christine Delphi e insieme a Simone de Beauvoir, e può essere considerata una rappresentante del femminismo materialista francese. Dice: lì era rivelato un sistema di classe così perfettamente appunto che era restato per lungo tempo invisibile. La puntata scorsa abbiamo parlato della legge che in Francia è stata approvata, deve essere ancora approvata al Senato, ma se ne parla fra qualche mese. Comunque è stata approvata la legge contro la prostituzione. E abbiamo analizzato la legge e abbiamo visto che è basata su quelli che sono dei parametri che fanno riferimento a una delle impostazioni base con cui viene affrontata la prostituzione, che è quella del abolizionismo, no? Perché di fatto ci sono tre posizioni, se così per semplificare, con cui viene affrontata la prostituzione. La prima è il regolamentarismo, cioè in Italia per esempio le lucciole di Pordenone, che hanno il blog, il sito www.lucciole.org e sono il comitato per i diritti civili delle prostitute, si battono da anni appunto per i diritti civili delle prostitute, quindi per una regolamentazione, per un riconoscimento del lavoro delle sex workers. Poi c'è il proibizionismo, l'approccio proibizionista, che è quello di stampo moralista assolutamente repressivo e di condanna a tutto campo, che appartiene alle destre, diciamo così. E poi c'è l'approccio abolizionista, che invece è di stampo socialdemocratico, tant'è vero che il paese che l'ha per eccellenza messo in atto è la Svezia, no? Ed è improntato a due o tre cose che sono fondamentali. Una è la vittimizzazione della prostituta, cioè la prostituta praticamente è prostituta perché non ha potuto fare altro per ragioni economiche, perché non ha capito quello che fa, addirittura c'è anche questa posizione qua, e perché vittima di pressioni di sia psicologiche che fisiche, cioè non viene presa neanche per sbaglio in considerazione una parvenza di scelta personale, e quindi deve vittimizzarsi, deve riconoscere o che ha sbagliato o che è vittima di qualche cosa, e quindi denunciare eventuali protettori eccetera eccetera, affidarsi allo Stato. Poi c'è la colpevolizzazione dei fruitori del servizio, per cui infatti nella legge francese vengono perseguiti chi va con le prostitute, viene perseguito e o paga una multa oppure viene affidata ai servizi sociali per il recupero, proprio in un'ottica che più etica, nel senso di etica di stato etico di stampo nazista, non si può. E infatti vengono delegate a delle associazioni queste finalità di recupero, per cui devono impostare, ed è un'impostazione fortemente repressiva, ed è un'impostazione fortemente moralista, al di là di tutto quello che sbandiera, ed è oltretutto supportata da quella che è la sinistra socialdemocratica, addirittura anche da parti di quello che viene considerato femminismo, ma che di fatto è un femminismo emancipazionista e socialdemocratico. Ora, rispetto a questa disamina che abbiamo fatto l'altra volta, vorremmo aprire la nostra trasmissione di quest'oggi con delle considerazioni fatte da femministe che hanno affrontato questo tema. Per esempio, vorremmo leggervi un pezzo di Paola Tabet. Lei è stata docente di antropologia e comunque ha fatto un libro che, diciamo, è esemplare rispetto all'approccio alla prostituzione, non solo alla prostituzione, perché lei parla di scambi sessuali, scambi sesso-economici asimmetrici, e comunque intitolato La grande beffa, sessualità delle donne e scambio sesso-economico, ed è un libro del 2004. E vi vorremmo leggere un pezzo di commento su questo libro, che è tratto dal libretto Viola, dai quaderni Viola, Donna, non si nasce donna, che è uscito quest'anno per l'edizione Allegre e che ha il pregio di fare una carrellata del femminismo materialista francese. Il pezzo comincia così. Attraverso esempi tratti dalle società più varie, da quelle di cacciatori e raccoglitori alle società stratificate contemporanee di tutti i continenti, ci mostra che la sessualità tra i sessi non si configura come scambio reciproco, scambio di cose simili, sessualità contro sessualità, ma come scambio asimmetrico unidirezionale, compenso maschile sotto forma di dono, prezzo, posto di lavoro, carriera, prestigio, nome, contro prestazione sessuale femminile. Tale asimmetria è un fatto strutturale, generalizzato, connesso con la divisione sessuale del lavoro, il diverso accesso alle ricchezze e al potere, concentrate in modo pressoché assoluto in mani maschili. La prostituzione professionale a tariffa è solo il polo di un continuum che ha il dono all'altro polo. Ciò significa che l'opposizione tra puttane e donne per bene e mogli è frutto dell'ideologia dominante di stampo patriarcale, e che anche, virgolette, fatti di costume, apparentemente innocenti, come gli inviti da parte maschile a cene, divertimenti, brevi viaggi, pur se avvengono in situazioni di corteggiamento, sono visti da Tabet come significativi, in quanto mostrano il condizionamento generale ad una sessualità di servizio e allo scambio sesso-economico. Dai doni apparentemente liberali a compensi o doni come aspetti formali e obbligati della coniugalità, a forme di prostituzione che comportano servizi domestici e talvolta riproduttivi, spesso di sostegno psichico, fino alla separazione del servizio sessuale da altri tipi di servizi e alla frammentazione delle prestazioni con precise tariffe. Il continuum, delineato dalla grande beffa, è complesso, non lineare, ma verificabile nelle tante storie di vita. E infatti è particolarmente illuminante quello che dice nella grande beffa Paola Tabet, perché svela, analizza, perché è un dato di fatto, che il rapporto maschile e femminile, il rapporto maschio-femmina è sempre di servizio, anche nelle manifestazioni che sembrano di normale corteggiamento, nelle manifestazioni affettive, no? Una cosa banalissima che infatti adesso abbiamo letto è che di solito, se voi ci pensate, il maschio invita a cena la donna che vuole corteggiare, per cui dà, elargisce qualche cosa, e di solito, no, nella tradizione paga lui, no? Quindi elargisce qualche cosa in cambio di un servizio che vorrebbe avere. Infatti sfugge assolutamente il fatto che da una parte il rapporto maschile e femminile è strutturale, e quindi tutti gli atteggiamenti che abbiamo sono una costruzione. Tant'è vero, per questo io suggerirei di per noi è stato illuminante, diciamo, leggere un libro come Il Grande Calibano, in cui vengono viene smontata la costruzione del rapporto fra i sessi e la costruzione del femminile in questa società, cioè nella configurazione capitalista. Perché Silvia Federici e Leopoldina Fortunato, che hanno fatto Il Grande Calibano, studiano il passaggio e il cambiamento del modello femminile dalla società precapitalista a quella capitalista, e si vede proprio che tutta una serie di meccanismi vengono costruiti ad uso e consumo del modello socio-economico. I'm the hottest girl in town, and when it comes way to hell. I love the devil and I love him well. Little devil's running up and down the wall, trying to do something daddy, oh she never saw. E rispetto al fatto che questo modello socio-economico imposta tutto come mercificazione, cioè i rapporti sono sempre un rapporto di vendita e di acquisto e di mercificazione, e che quindi il tutto quello che noi, tutti i lavori che noi facciamo e tutto il modo di rapportarci con il resto della società non è altro che un rapporto mercificato. In questo senso vi leggiamo un pezzo che riguarda sempre la prostituzione, ma visto sotto l'ottica del fatto che di fatto con la prostituzione noi vendiamo un pezzo del corpo, e con altri lavori ne vendiamo un altro, oppure con altri lavori vendiamo la mente, mentre l'impostazione socio-economica che vuole il controllo della produzione e della riproduzione sessuata dei corpi cerca di far passare questo concetto in tutt'altro modo. Allora, adesso vi leggerò un pezzo tratto da Femminismo Assurdo che trovate su femminismoassurdo.noblogs.org. Quelle che noi non siamo merce, e poi restano a fare guadagnare tutto il giorno papà Zuckerberg su Faccia Libro, o commentano imperterrite su siti e blog in cui ogni commento, ogni accesso fa guadagnare money in pubblicità, dicendo che già mai qualcuno guadagnerà sulla nostra pelle. Quelle che io non mi venderei mai per niente al mondo, e sono lì a fare marketing involontario a ditte di profumi, di cosmetici, biberon e pannolini, modelli sociali e ruoli che arrivano dritti dritti da operazioni di marketing a largo raggio e da pubblicità. Quelle che io la da solo per piacere, e a parte il fatto che chissà se trombano davvero, poi se le vedi compiacenti e accondiscendenti a far pompini metaforici o reali per un posto di lavoro, uno spazio nella società, una fetta di mondo, un'illusione della libertà. Quelle che vendono il modello restiamo unite, vogliamoci tutte quante molto bene, ridicolizzano un conflitto politico che è sempre rimosso, salvo legittimarlo impropriamente, quando si esprime in flame, livore, incontrollato, aggressività contrabbandanti per critica e dissenso. Quelle che io non sono merce stanno a raccontarsela mentre c'è il mondo intero che vende il brand femminicidio, violenza sulle donne, mamma o più semplicemente donna, e sono funzionali ai neoliberismi e patriarcato, governi, istituzioni, botteghe e teatri osceni a rappresentare la patria in quattro vittime, soggetti deboli a schiena nuda con su scritto fragile. Quelle che io, puttana mai, e non fanno che puntellare il cammino reale o metaforico di quella che dovrebbe esprimere orgasmo, urli, parole, pensieri controllati che alla società dell'oggi, al marketing istituzionale, all'industria del salvataggio, altrimenti non siamo funzionali. Quelle che noi non siamo merce, ma mercificano il femminismo per farlo diventare strumento di promozione per industrie, reti assistenziali, quelle che di quella promozione campano. Quelle che la prostituzione, anche se è per scelta, una violenza, e per affermare quell'idea profondamente autoritaria legittimano leggi repressive in cui in programma si vedono tanti bei soldi per la formazione, la rieducazione, la intercettazione, la repressione e neppure un soldo per prevenire la precarietà. Quelle che se fossero libere, ma libere per davvero, e se non avessero sviluppato micro-macro dipendenze, depressioni, ossessioni, idiosincrasie da precarietà diffusa, non trascorrerebbero tutto il giorno a lurcare e pedinare virtualmente l'altro. Quelle che pensano che le sorellanze si celebrano col rito sacrificale della strega di turno sull'altare della lotta contro la violenza sulle donne, not in my name, e oggi gli si indigna il sopracciglio per un culo nudo in pubblicità, domani per un porno e domani l'altro considerano quei culi come oggetti che è né più e né meno che quello che fanno altri, mentre dimenticano di chiedere alla persona che ci ha messo il culo se l'ha fatto di sua sponte oppure no, se ha bisogno di essere salvata oppure no. Così quel culo, da che era una merce pagata, diventa merce gratis del Comitato per la Purezza dell'Orgasmo per il bene dei sacri valori morali della società. Quelle che hanno la parola un po' più lunga, un po' più pregna e moraleggiante di mestiere, fanno le spaccatrici di panico morale per sollevare l'audience di giornali, siti web e TV ogni volta che si ragiona di violenza. quelle che guardano le puttane solo come anime perse da redimere, per farle ritornare sulla retta via, recuperare il loro buon senso, iniettando loro un po' di banale senso del decoro, che, cara, se gliela dai per i soldi hai perso il senso pieno del piacere che solo io conosco. Meglio fare la badante, la pulisci i cesti, la lavapiatti, la moglie, la infermiera, dove ti vendi uguale ma a prezzi da schiava d'altri tempi. Quelle che noi non siamo merce, ma ti rivendono anche da cadavere per dire messa, raccontare balle e poi celebrare la catarsi promuovendo polizia e galera. Quelle che noi non siamo merce, ma il welfare in cui le donne fanno gratis sul ruolo di cura e mammismo sociale in eterno non lo mettono mai in discussione, che le femmine hanno l'istinto, sono braverrime, migliori per fare quelle cose là, e perciò sti cazzi, rivendichiamo pure la nostra differenza. Ma anche no. No, dai, non siamo merce, è che rendersene conto è una trambata in faccia, è ebbrezza neuronale, è il risveglio necessario. Noi siamo tutte merce e esserne consapevoli significa monetizzare l'uso che altri fanno già di te, perché tra illudersi di essere libere ed esserlo davvero c'è una distanza abissale. Siamo tutti merce, proprio tutti, perché le battaglie identitarie, sociali e anestetizzanti oggi sono funzionali al capitalismo, che ti vuole illusa, inconsapevole e mai cosciente del fatto che sei tu a poter imporre un prezzo, che tu ce l'hai stampato sul culo, sulla faccia, sulla vita quel prezzo, ce l'hai dalla nascita, e fare finta che non sia così è una stronzata. Quelle che noi non siamo merce, e in fondo, ed è questo il punto, sono delle moraliste, perché l'unica cosa che per loro non sa da vendere è la fica, che dicono che la tua vita e il tuo corpo dovranno essere liberi, li consegnano al controllo di utilizzatori finali di stampo istituzionale, puttane sempre, puttane a testa alta, fiere di esserlo. Perché sei tu che puoi decidere il tuo prezzo, ed è questa la cosa che non va bene a chi dice di volerti salvare. In fondo è sempre meglio essere sfruttate da papponi legali che non esserlo affatto. Quelle che noi non siamo merce, ma merce lo sono, perché pensano da merce, vivono da merce, respirano da merce, e quel che a loro sta sulle ovaie è solo il fatto che c'è chi decide di appropriarsi di quel ruolo e di gestirlo autonomamente. E dopo, solo dopo, quando avrai acquisito questa consapevolezza, quando sarai cosciente di essere soltanto merce, sempre avrai la forza di prenderti tutto senza chiedere più niente, potrai dire di poter fare forse la rivoluzione, ma mandando a quel paese liberismi e moralismi, anestetizzatrici delle precarie in nome del bene delle donne e imbonitrici o imbonitori del circo dell'antiviolenza. Un circo, perché questo è al servizio dei padroni. Dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks. I'll be dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. I'll be dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. Dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming, dreaming. come spesso accade, la riflessione sui margini delle società, nel nostro caso sulla prostituzione, getta luce intensa sul cuore dei problemi. La parola puttana ha condizionato la vita di tutte le donne in molti luoghi e da lungo tempo, c'era un errore, ha definito e controllato i pensieri, i desideri, l'espressione della sessualità e le identità femminili. Quante volte abbiamo avuto paura di essere colpite da questo stigma di genere che, è noto a tutti, non riguarda solo le donne che praticano il sex work? Su che cosa sia una puttana non vi è d'accordo tra le varie società. Tuttavia, una logica di fondo di dimensioni tendenzialmente universali sembra accomunare le definizioni. Non è solo chiedere un compenso o un dono per un servizio sessuale o avere molteplicità di partner, ma farlo al di fuori delle regole socialmente riconosciute dello scambio matrimoniale. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Violenza legale. Questa parentesi è dedicata a Chiara e ai compagni Notav arrestati. La legalità è legittimità riconosciuta. La violenza legale è pertanto l'unica violenza legittima. La violenza legale oggi è così diffusa e permea la società così tanto che non si può ricorrere a un'analisi che la legga come un'inevitabile anomalia che appare ogni tanto in un corpo socialmente sano. Questa violenza così generalizzata, così insistente, ci parla del male che affligge questa società. Così il discorso sulla violenza finisce col mostrare la verità dell'attuale condizione umana, il vero volto di una società che produce oppressi, oppresse e ingiustizia. Troppe e troppi dimenticano che lo scopo principale delle istituzioni cosiddette deputate all'ordine non è combattere la cosiddetta delinquenza comune, sorvolando anche sul concetto di delinquenza comune, ma conservare il potere a chi lo ha e mantenere questa società con le sue ingiustizie e le sue violenze. Allora si capisce che il vero destinatario delle martellanti dichiarazioni e campagne contro la violenza non è il manifestante, la manifestante, ma sono le azioni e quanto queste sono testimonianza. Allora si capisce il senso della persecuzione contro le notav e i notav e della campagna di demonizzazione nei loro confronti. I loro arresti e le modalità con cui avvengono equivalgono alle teste mozzate di medievale memoria, infilate sulle picche alle porte delle città per anni e anni, perché nessuna e nessuno osi più pensare che un altro mondo è possibile. Ciao. Allora. Her neon mouth with a bling it's all smile, nothing but an electric sign. Say she has an individual style, she's a part of a carnival time. Super seal lady, chrome covered clothes you wear, cause you have no other. But I suppose no one knows you're my plastic fantastic lover. Never shuts off, is nothing but a used machine. Her aluminum finish, slightly diminished, is the best I ever have seen. Cosmetic baby, plugged into me, and never ever find another. And I realize no one's wise to my plastic, fantastic lover. Electrical dust is starting to rust, her trapezoid thermometer taste. All the red tape is mechanical rape of the TV program waste. Data control and IBM, science is mankind's brother. But all I see is draining me on my plastic, fantastic lover. Bene, siamo qui per la seconda parte della trasmissione. Vi ricordiamo che questo è sempre I nomi delle cose, la trasmissione della Coordinamento Femminista e Lesbica, che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, che il nostro blog, dove potete trovare i materiali e le notizie, è coordinamenta.noblogs.org, e che la nostra casella di posta è coordinamenta@autistiche.org. La seconda parte è legata alla prima ed è in effetti lo spunto ci è venuto per un motivo particolare, perché proprio parlando della legge e analizzando la legge e poi contro la prostituzione in Francia, e poi parlando delle caratteristiche che ha questa legge e poi parlando della prostituzione, ci siamo accorte che uno dei nodi intorno a cui ruota il recupero e l'approccio nei confronti delle prostitute è quello della bisogna salvarle, in effetti, no? E loro si devono vittimizzare, cioè devono ammettere di essere vittime di una violenza, devono ammettere che sono anche vittime di situazioni sociali o vittime di uno sfruttatore, e quindi devono vittimizzarsi. Questo approccio però non è soltanto nei confronti delle prostitute, è un approccio che in particolare ha la configurazione, chiamiamola così, sociale, socialdemocratica, che è fondamentalmente impregnata di un forte moralismo, e che che in questo momento storico preciso si è coniugata con l'impostazione da stato etico del neoliberismo, che ha la pretesa di normare ogni aspetto della nostra vita. Quindi neoliberismo e approccio moralistico di stampo socialdemocratico hanno dato origine a una miscela esplosiva che nei confronti di noi donne ha assunto dei connotati particolarmente devastanti. Quindi vittimizzazione, delega, colpevolizzazione. Ci è parsa particolarmente interessante una posizione che lei stessa ha definito post-vittimista di Nicoletta Poidimani, che ha dedicato al post-vittimismo sul suo blog uno spazio preciso. Il blog di Nicoletta è www.nicolettapoidimani.it. Noi l'abbiamo intervistata e adesso vi mandiamo l'intervista. Ecco, adesso ve la mandiamo. Allora, siamo qui in onda con Nicoletta Poidimani. Ciao Nicoletta. Ciao a tutte e ciao a tutti. Ecco, finora abbiamo raccontato alle compagne, alle ascoltatrici quello che è la legge francese contro la prostituzione, ed eravamo arrivate ad un nodo, cioè eravamo arrivate a raccontare che uno dei principi su cui si informa è quello della vittimizzazione. E in effetti questo riguarda poi anche l'approccio al problema della violenza contro le donne tutte. Tu hai scritto diverse cose sulla vittimizzazione, anzi io ho letto proprio sul tuo blog che una parte è dedicata a questo argomento, vero? sì, ho deciso dopo anni che lavoro su questa questione del post-vittimismo, e chiarisco subito che non è una cosa che mi sono inventata io, ma è una suggestione che ho preso da Vandana Shiva, da un suo libro degli anni Ottanta che è Sopravvivere allo sviluppo, e ho deciso quest'anno di mettere in rete sia le riflessioni che stavo facendo, sia anche i laboratori che da un po' di anni a questa parte sto portando, sia in ambito accademico quando mi capita di lavorarci, sia anche in situazioni di movimento, proprio perché avevo visto che quello che andava prefigurandosi per il 25 novembre era di nuovo come dire, prevalentemente di stampo vittimistico, cioè ancora una volta le donne vittimizzate, e per vittimizzate intendo queste rappresentazioni che troviamo anche nelle campagne, come dire, fatte di cuore, come quelle di Amnesty International, quindi non solo quelle istituzionali, dove ci sono donne sempre rappresentate come passive, massacrate, donne insanguinate, donne addirittura crocefisse e via dicendo. E nelle iniziative che andavano prefigurandosi per il 25 vedevo che rimaneva questo tipo di impronta. Allora ecco che mi è sembrato importante portare in rete delle riflessioni cercando di in qualche modo stimolare sollecitare a fare un passo avanti e a rompere con questa vittimizzazione che è assolutamente funzionale al controllo statale sui corpi. E qui sicuramente si inserisce anche il discorso della prostituzione, sul quale però io vorrei fare delle ulteriori riflessioni, se posso, sì, per sì. Poi tornare alla questione del post-vittimismo. Sì, sì. Perché mi sono resa conto, e sono sinceramente un po' stufa, che da anni anche sulla questione prostituzione, al di là del prostituzione sì, prostituzione no, di posizioni che possono essere giudicate più o meno bigotte, però l'atteggiamento soprattutto da parte di chi non si prostituisce e che però si fa paladina o paladino della prostituzione, insomma, continua a ritornare questo concetto di autodeterminazione, contemporaneamente il concetto di ciascuno vende ciò che vuole, sceglie il lavoro che vuole. Ora io sono dell'idea che nel lavoro non esista autodeterminazione, sia esso la prostituzione, il lavoro in miniera o qualunque altro genere di lavoro. Certo. E trovo assolutamente pericoloso e funzionale proprio alla classe borghese, cioè a chi detiene il capitale, che si faccia questo tipo di discorso. Cioè, quale autodeterminazione vediamo noi nel lavoro? Quanto ci autodeterminiamo quando cerchiamo lavoro? Alla fin fine, e soprattutto, vogliamo veramente vendere qualche parte del nostro corpo per campare? Perché il lavoro è vendita di sé, è vendita di parti del proprio corpo, siano la testa, le mani, i genitali o qualunque altra parte del corpo, comunque sempre una vendita. Certo. Allora, interroghiamoci sul fatto che davvero ci interessi vendere qualche parte del corpo per campare e non ci sia invece dietro questo dispositivo una coercizione al lavoro, no? Allora mi sembra che in tutti questi ragionamenti manchi proprio una riflessione, come dire, a monte, che permetta di non cadere in quella retorica lavorista molto, come dire, coltivata anche da certa sinistra anche nei decenni passati, che è però una retorica funzionale al capitale e alla sua doppia morale. Io sono molto d'accordo su questo, perché viene sempre messa anche in tantissimi ambiti di compagni e compagni, il lavoro viene messo come centrale, no? Cioè viene ribadita la centralità del lavoro, mentre secondo me, ma comunque anche un'ottica femminista spesso pensa questo, che la centralità sia riappropriarsi degli spazi e dei tempi della vita, no? Sì, esatto, infatti io usando dei termini marxiani, perché insomma il buon vecchio Carlo di Treviri su queste questioni e sulla dialettica capitale-lavoro ci aveva ragionato non poco, cioè è la differenza essenziale che c'è tra l'attività e il lavoro, la Tätigkeit e l'Arbeit, no? Certo. Infatti sui campi di concentramento non c'era scritto che l'attività rende liberi, ma che il lavoro rende liberi, non è guarda caso. Caso, e forse ci dovremmo un pochino meditare, no? Questo però per me è davvero un nodo importante, no? E a questo proposito, se ho qualche minuto prima di tornare alla questione post-vittimismo, volevo leggere un brano. Io sto in questi giorni leggendomi e meditando molto, mi sto leggendo il testo La storia della Morante, no? Sì. Che è un testo che no, scusate, ma è saltato un gatto sul libro, perché in questa casa il felino regna sovrano. E la felina o il felino? Lui è Ginello. È Ginello. E praticamente, insomma, è un libro che nomina le contraddizioni in maniera impietosa, non te le manda a dire, no? E per me è davvero illuminante leggerlo con questa ottica. Ora, c'è questo passaggio in cui Davide, che è un ex partigiano, no? Siamo nell'immediato dopoguerra, ed è un ex partigiano di origine ebraica e di origine borghese, era il partigiano Piotr, a un certo punto, sbottando, dice: riguardo alle leggi dell'etica, la loro confusione, intendendo quella della borghesia, cioè della propria famiglia, perché lui parla della propria famiglia, era tale da far credere davvero che essi fossero gli zimbelli inconsapevoli di una burla. A giudizio di suo padre, un dipendente del cantiere che si appropriasse di un rotolo di filo di rame, senz'altro era un ladro. Ma se qualcuno a suo padre gli avesse detto, a lui, che le sue famose azioni erano rubate sulla paga dei lavoratori, lui questa l'avrebbe presa per un'assurdità. Se un rapinatore armato fosse entrato con la forza in casa loro, devastando e ammazzando, suo padre e sua madre lo avrebbero giudicato naturalmente un criminale infame, degno dell'ergastolo. Però, quando i rapinatori fascisti agirono allo stesso modo contro il territorio etiopico, essi offrirono il proprio oro per favorirli. Un sistema nel quale essi dimoravano comodi, a loro non dava motivo di sospetto. Ecco, allora, questa doppia morale sul lavoro, no? Dove il lavoro è legalità, mentre l'illegalità è qualcosa che va punito e va perseguito, eccetera, ci riporta anche al discorso della vittimizzazione. Cioè, e questo di questo ne avevo già parlato anche con voi, no? In occasione di un vostro incontro. Sì. Ossia, com'è possibile che la donna che subisce una violenza si ribella a questa violenza e decide di reagire anche con violenza e anche ammazzando il marito che la massacra da anni, piuttosto che chi cerca di violentarla per strada, diventa colpevole, no? Perché questa donna, nella mentalità, diciamo, comune, cosa dovrebbe fare? Farsi massacrare ben bene, poi andare a fare denuncia e sperare che il papà stato, ossia quello stesso patriarcato capitalista, suprematista bianco che sta alla radice di questa violenza contro le donne e contro i soggetti sfruttati, intervenga a suo favore, se no lei viene processata per aver reagito, per non aver di fondo delegato, no? Cioè la sua reazione, la sua autodeterminazione diventa un reato. Ed ecco che io dicevo, forse più che andare sempre solo sotto le aule di tribunale dove si svolgono i processi per stupro, bisognerebbe cominciare ad andare anche là dove invece viene processata una donna che ha reagito all'uomo che cercava di agire violenza contro di lei, no? È tanto vero questo, che noi una volta, proprio penso nell'incontro che tu hai nominato prima, avevamo detto che lo Stato, questo sistema, si pone paradossalmente poi come aguzzino, tutore e padre delle donne vittimizzate, no? Esatto, esatto. In più, appunto, con questo dispositivo culturale ormai, come dire, davvero radicato anche in persone insospettabili, per cui la vittimizzazione è, come dire, la via maestra per salvaguardare le donne. In realtà tutto questo dispositivo vittimizzante serve sempre solo a indebolirci, e più noi siamo indebolite più siamo portate a delegare. Visto che ci si occupa di genere, razza naturalmente sempre tra virgolette, e classe, andiamo a vedere che cosa significa indebolimento. Significa appunto che sul piano del lavoro tu devi delegare ad un sindacato, che sul piano della sessualità e della tua sicurezza tu devi delegare allo Stato, eccetera eccetera, no? Certo. Quindi noi non siamo dei soggetti deboli, noi siamo dei soggetti indeboliti. Come giustamente diceva una volta Elisabetta Donini, la scienziata, smettiamola di parlare di paesi poveri, parliamo di paesi impoveriti, perché se diciamo impoveriti andiamo a vedere quali relazioni coloniali e neocoloniali abbiano generato la miseria, certo, in cui questi paesi vivono. Se parliamo di paesi poveri è come se per essenza, per nascita, per chissà quale maledizione divina, e c'hanno sta sfiga, sono poveri. E invece no, non e è assolutamente così. Hai aperto uno scenario che riporta ad unità i meccanismi che questo sistema agisce, perché lo stesso sistema che viene usato nei confronti delle donne, quindi delle soggettività deboli, considerate deboli e volute deboli qui da noi, viene usato nei confronti dei popoli del terzo mondo. Esatto, esatto, infatti, per cui, cioè, infatti anche di questo ho parlato, così proprio per fare un esempio nel mio sito, parlando di post-vittimismo, perché alla fine queste campagne contro la violenza sulle donne a me richiamano tantissimo alla memoria le campagne di raccogliamo il soldino per il bambino povero del terzo mondo. È che la muore stessa di fame, cosa, no? Certo. Esatto, è la stessa cosa, quindi da una parte ti pulisci la coscienza, non vai alla radice di quella che è la come dire, la causa prima dell'impoverimento di questo bambino, della condizione, e soprattutto del fatto che ci deve essere questo bambino, così come ci deve essere la donna massacrata, se no il sistema non va avanti. Allora, se vogliamo veramente eradicare queste cose, dobbiamo forse andare ad analizzare e a contrastare con radicalità il sistema. Dobbiamo rompere questa doppia morale sul lavoro, questa doppia morale sulla sessualità, eccetera, se no non ne usciamo più. Ecco perché secondo me si tiene proprio insieme la questione del post-vittimismo con la questione, diciamo, con gli spunti che vengono da tutto il dibattito sulla prostituzione. In entrambi i casi, secondo me, o facciamo un salto o ce la stiamo solo a raccontare. E un'ultimissima cosa vorrei dire, vorrei segnalare, che secondo me è veramente incredibile, forse in tante e tanti se ne saranno accorti, ma se si va sul sito del Quotidiano Nazionale Online, quindi quello che raccoglie Il Resto del Carlino, La Nazione, eccetera, c'è una petizione online per riaprire le case chiuse. È quindi vero. Questo fa parte, secondo me, di quel ritorno all'indietro, di quello smantellamento. Non hanno smantellato già tutti i risultati, come dire, delle lotte sociali degli anni 70, e qui andiamo ancora più indietro adesso, no? Sì, sì, sì. Ora, sì. Se si va a leggere le lettere dalle case chiuse di Lina Merlin, si vede come ogni donna fosse una soggettività a sé, no? Quella che appunto era, non dico contenta, però comunque soddisfatta di quel tipo di lavoro e voleva rimanere nella casa chiusa, e le donne che invece parlano di sfruttamento all'interno delle case chiuse. Allora, che ci sia un giornale a diffusione nazionale, infatti si chiama Quotidiano Nazionale, no? Che addirittura oggi si arroga di fare una petizione di questo genere, secondo me è veramente preoccupante. Cioè, noi abbiamo perso voce su ogni capitolo e dobbiamo ritrovarla, questa voce, ma che sia una voce che urla, non una vocina che chiede per favore gentilmente. Sì, perché siamo perfettamente d'accordo. Sta succedendo qualcosa di veramente pericoloso, proprio il potere che hanno acquisito in questi anni i media di regime. Ora, io non guardo la televisione da una vita e non ce l'ho, però mi basta quello che leggo sui giornali per capire, no? Che come si sta andando. Cioè, siamo già oltre quello che diceva Pasolini, non di formazione di una mentalità piccolo borghese, è altro. Qui è stato addirittura delegato ormai completamente anche l'aspetto culturale, la scelta, no? Certo. Allora non esiste mai un tertium datur tra il sì e il no. Ecco, io direi che noi dobbiamo invece lavorare su questo tertium, dobbiamo fare in modo che possa davvero essere dato, essere concreto e che sia una strada completamente diversa e radicalmente pensata dai soggetti chiamati in causa, senza nessuna delega. Allora, guarda, hai aperto scenari di discussione proprio interessantissimi. Noi ti ringraziamo tantissimo di questo intervento, che poi tra l'altro porteremo anche in discussione in coordinamento tra di noi, quindi molto probabilmente speriamo di risentirti anche presto. Benissimo, e spero di avere proprio modo di discuterne, perché ripeto, io queste cose le ho messe nel mio sito, aprendo proprio la pagina post vittimismo, per cercare di sollecitare la discussione, sicuramente non perché mi interessasse dire vedi quanto sono brava, cosa che proprio non mi interessa. Ma anzi, adesso no, daremo anche il riferimento del tuo blog, perché è una pagina, cioè il fatto di aver aperto per esempio uno spazio su questo già è una cosa molto buona, aprire uno spazio di discussione su temi. Non so se hai notato che tanto viene sbandierato il problema della violenza sulle donne, il problema delle donne vittime, il problema dei tribunali, tanto però c'è un silenzio assoluto ogni volta che uno tenta di aprire discussioni. Esatto, o se posso dire la mia, peggio ancora, succede che magari c'è una cannibalizzazione parziale di quello che dici, nel senso che viene preso quello che fa comodo e quello che più è così, diciamo, disturbante viene lasciato da parte, e naturalmente tu non vieni mai citata nella tua integrità, perché significherebbe riportare il tuo discorso nella sua integrità. No, viene proprio usato quello che serve. Sì, sì, sì, esatto, viene usato quello che serve, edulcorato, anestetizzato e quindi svilito e poi reso funzionale. È un discorso che magari certe volte è anche opposto addirittura. Sì, infatti, è vero. Bene, siamo molto contenti di averti avuto con noi, ci sentiamo presto e grazie tantissime. Ci mancherebbe, un abbraccio a voi, a presto. Ciao, grazie, ciao. Ciao.